qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo, sei solo chiacchiere distintivo. Minuti primi, le frequenze di Onda Rosso 87.9 della banda romana laziale. No, malgrado così le non perfette coincidenze d'orario, ci facciamo in 4, in 5, in 6, in 8, in 16. Per animare il palinsesto della radio anche nelle ore quando ci avete sonno, o forse no, è proprio per gli insonni. Nel frattempo ci danno le istruzioni sul da farsi proprio per la notte. E ci siamo abituati, insomma, da tanti anni. Questa è la fascia oraria in cui va in onda 25 o'clock. Ricordiamo a tutti e a tutte che Radio Onda Rossa vive dal 1977, ormai 43 anni, grazie al supporto, all'aiuto, alla collaborazione e alla compartecipazione di tutte e tutte voi in varie modalità, in varie forme. Come sapete, la radio è una radio sempre aperta a tutti i tipi di contributo. Ovviamente è una radio di parte, insomma, e questo lo sapete bene voi che la ascoltate. E altrettanto aperta ai contributi di discussione e di dibattito è altrettanto aperta, diciamo, la borsa della radio, nel senso che vivendo appunto di questi contributi e non di pubblicità e non di apporto di partiti o partitini, di appoggi economici esterni, vive di autogestione, cioè del contributo di noi tutti e noi tutte. 61 80 40 01, il numero del conto corrente postale da intestare a cooperativa culturale laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo. Indirizzo anche della radio, qualora aveste voglia di salire su al primo piano di via dei Volsci, 06491750, lo diciamo per primo all'inizio, è mezza presentazione durante la sigla, il numero del telefono, e non alla fine della chiacchierata sopra la sigla come facciamo di solito, perché tanto se lo chiamate non vi risponde nessuno. In quale fisicamente gli studi della radio sono vuoti e 25 o'clock va in onda da lontano grazie ai potenti mezzi messici a disposizione dal Tech Block, che non esiste. onda@ondarossa.info è la casella di posta elettronica della radio dove potete inviare le vostre comunicazioni. Alla radio stessa, 25 o'clock, 25 scritto a numero, 25 o'clock, @ondarossa.info. Se volete insultare o proporre al sottoscritto cose tipo la proposta che ci viene fatta questa sera, questa notte, www.ondarossa.info, il sito della radio dove potete trovare anche, oltre ai podcast, delle autoproduzioni audio che la radio mette online, anche proprio la paginetta cliccando su sostieni, dove troverete tutti i modi per poter sottoscrivere per la radio. Ci togliamo subito il dente, ormai è diventato il tormentone. Ovviamente la voce di Libby Grace insieme a Desert Session, If You Run. Hey now, everybody crowd around, something you should know. Fast break, always a mistake when you got nowhere to go. You can lie for the honey, lie for the wealth. You can lie to each other, but you better never lie to yourself. No sign of any second mind, what she had she gave. Red hand with another man, there's no one here to save. She started out like most of them, heart full of dreams, a head full of nothing. If you run, you better have a place to go. If you run, on her charms, deep scars fading in the stars, fading in each other's arms. He took her down to his hiding place, all he's bringing back is dust on his face. Stone throw, tapping at the window, fools with no plans. Slow wine, broken by design, be good for be goddamn. You think you left it all behind, you're choking on the weeds, you're stronger on the vine. If you run, you better have a place to go. You gotta have a place to go. di frusci sono d'obbligo. Questa era del 1991, il disco si chiamava Whatever Cool With Me. E naturalmente i più avvertiti e le più avvertite di voi avranno riconosciuto senz'altro le sonorità di Dinosaur Junior. Una di quelle band che penso proprio dagli inizi della loro produzione fino ad oggi. Così abbiamo in qualche misura l'orgoglio di dire che abbiamo sempre seguito, magari non in prima persona, perché come sapete proprio i primissimi anni 80, all'inizio della redazione di Rumori Molesti e di Next Time, il sottoscritto non era presente, poi è stato presente così in forma non in diretta, ecco. E comunque, ecco, i Dinosaur Junior ci sono sempre stati. Allora, ci ascoltiamo quindi di seguito. Ci ascoltiamo, dicevamo, di seguito, di nuovo da Whatever Cool With Me. Del 91, Quicksand Wagon Reprise, un'altra di quelle cose che vi frullano per la testa ma che non ricordate che cos'è, e ora ve ne rammenterete. E poi appunto di nuovo Velester, che ci ha prodotto oltre mezz'ora di delirio, praticamente prodotto con un giocattolino. Una roba che ti si anchilosano anche le dita, penso, nel manipolarlo. Lui è riuscito a manipolarlo per appunto oltre mezz'ora, registrare direttamente il tutto in buona qualità. La qualità che sentirete dalla radio invece sarà pessima, perché facciamo 50 salti prima di arrivare alle radio e alle vostre orecchie. Siccome dura 35 minuti. Siccome dura 35 minuti, dicevamo, proveremo, ci organizziamo così, lì per lì, perché non abbiamo preparato ovviamente i sample, ma non li abbiamo organizzati. Quindi vediamo se riusciamo a inserirli durante i 35 minuti e vai, insomma, così in diretta. Radio Onda Rossa 87.9, quindi vi lasciamo di nuovo con Dinosaur Junior, Quicksand Wagon Reprise, e poi Monoverso Pluninucleare, prodotto dal nostro Velester. Piace a chi comanda, però piace alla mia banda. Si chiama Scarceranda. Si chiama Scarceranda. Piace a chi comanda, però piace alla mia banda. Si chiama Scarceranda. Si chiama Scarceranda. Una puoi comprarla, una regalarla, per ogni Scarceranda fatta si spacca una sbarra. Con Salvo nel cuore, ma oggi tocca supportarla, l'agenda che dà gli incubi ad ogni agente di guardia. Non piace a chi comanda, però piace alla mia banda. Si chiama Scarceranda. Si chiama Scarceranda. Non piace a chi comanda, però piace alla mia banda. Si chiama Scarceranda. Si chiama Scarceranda. scarcerando al 2021, l'agenda contro ogni tipo di carcere. Per ogni copia acquistata una verrà regalata a una persona priva della libertà. Informazioni su ondarossa.info. I'm closer to the golden dawn. I can't believe the wagon's gone. It's history. I'm living in a carless realm where others seem to dig at just too much reality. I'm frightened by the total goal. Drawing to the ragged hole, and I ain't got the wagon anymore. No, I ain't got the wagon anymore. I'm the twisted name on Uma's eyes. I'm living proof of Cindy's lies. It's destiny. Drawn between the light and dark, where others see their targets, I can't see anything. Or should I leave the engine on to listen to that mountain song, sinking in the quicksand of my thoughts? And I ain't got the wagon anymore. Don't believe in yourself. Don't deceive with belief. Knowledge comes with disbelief. Oh. Not too stable, hanging by a string. Can't face the thoughts no wheels will bring. I gotta go. Bad enough being at home without the way to leave the damage is gonna show. If I don't explain what you ought to know, you can tell me all about it at the next ball show. I'm sinking in the quicksand of my thoughts, and I ain't got the power. Don't believe in yourself. Don't deceive with belief. Knowledge comes with death's release. Oh. Abinorme. Sono quasi sicuro che era quello il nome. Vorreste dire che io ho messo un cervello abnorme in un energumeno lungo 2 metri e 20 e largo come un armadio a 2 anse? Canaglia! È questo che vorresti dirmi? Canaglia! È questo che vorresti dirmi? Canaglia! È questo che vorresti dirmi? Dimmi, quel cervello che mi hai portato era di Hans Delbrück? No. Ti dispiacerebbe dirmi di chi era il cervello? Dimmi, quel cervello che mi hai portato era di Hans Delbrück? Dimmi, quel cervello che mi hai portato era di Hans Delbrück? Canaglia! È questo che vorresti dirmi? Abbi qualcosa. Abbi qualcosa. Improvvisa mi illumina.

you know. siamo. Eccolo. È ritornato il microfono. Vabbè, sì, insomma, dai. Ci siamo. C'era sparita la voce per un po'. Poco tempo. Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. E quindi Belester ci propone un assist di quelli imperdibili e noi deliriamo insieme a lui. E quindi monoverso plurinucleare con alterazioni vocali. A seguire, splendido lavoro uscito per i Fuzz. E cioè Chas Motards, T.I. Segal, Chud Ubovic. Da cui abbiamo ascoltato Time Collapse, che così fa la rima con 25 o'clock, il tempo rubato ai ritmi del consumo, della produzione e dell'angoscia, oserei dire. E poi Gateway, del 2002, per quanto riguarda The Music, la loro prima uscita, forse la bella uscita, poi basta, sono finiti. Ed ora il rock blues di The Black Keys, Low High. 25 o'clock ai controlli, Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza a notte fonda, 41 minuti dopo la mezzanotte. We'll be right back. Ci sono giorni in questa vita in cui vorrei sedermi con tutta la mia gente che viene da ogni angolo di questo misterioso pianeta e banchettare con bacche e rucole e letteralmente urlare più forte di quanto il mio cuore umano possa permettere. La modulazione di frequenza della banda romana e laziale. Splendido, splendido, splendido disco, lavoro. Peggiore al 44, nessuna traccia originale in questo disco edito nel 2020, ma rielaborazioni vecchie storie risuonate completamente, riproposte. A praticamente 20 anni di distanza, insomma 15 anni di distanza. E Post to Face, John McCurry remix, e sotto la nostra voce post modern Hereditary Dance Steep, che tante volte abbiamo ascoltato nella versione originale del disco di molti anni fa, che non abbiamo qui sotto mano, abbiamo qualche metro di distanza. Un giorno o l'altro le proporremo le due versioni, una appresso all'altra, così per notare quanto sia cambiato e riattualizzato l'urgenza e l'urgenza creativa di Juno 44. Ed ora un dischetto uscito così per Natale, che si chiama Seasonal Shift, un regalo stagionale per Calexico, forse il disco più brutto che abbiano mai fatto, lo diciamo così con dopo aver amando profondamente Calexico nelle loro sonorità. La traccia più bella è sicuramente quella con Bombino, il cantautore bluesman nigeriano, Earth to Downtown, quindi Calexico con Bombino. Mm-hmm. still remain. Shoot the dust right off of our shoes. Like a river running from the desert to the sea. They listen to the heart of downtown. Dear good neighbor is what they say, but the laws don't always walk that way. Ready for a hurry to flood, and ready for change to everyone. Shining bright like a shooting star. They listen to the heart of downtown. All the years of pain. Can't wish it away. Standing by our side as we take the streets tonight. Anything can happen when you open your heart. From the Capitol steps to the heart of downtown. Shining bright like a shooting star. Dancing to the heart of downtown. الزمان المتين دون تفسير مغان Like a river running from the desert to the sea. Dancing to the heart of downtown. Nella galera l'unica stella che si vede è carabiniera. Nella galera l'unica luce che filtra il muro è buio, non è luce vera. Nella galera anche se fuori c'è il sole ti svegli sempre con la luna nera. Nella galera aspetti il giorno, aspetti e aspetti, ma è sempre sera. Odio la galera con tutta la rabbia che stringo tra i denti. E sono libera ma sono prigioniera. Se i carcerieri sono i veri delinquenti. Odio la galera, odio la galera. Odio chi scrive le leggi con i guanti. E sono libera ma sono prigioniera. Di chi parla di pene riqualificanti. Odio la galera, io odio la galera, io odio, odio, odio. Odio la galera, odio la galera, odio la galera. Odio la galera, io odio la galera, io odio, odio, odio. Odio la galera, odio la galera, odio la galera. Shy ladies, representing and supporting, con salvo nel cuore, libere tutte e liberi tutti. Sì. We lose ourselves in our tasks and our friends, and in making amends. We lose ourselves in these unnumbered days, and in the art of losing again. And in the art of losing again. Ourselves cast out into the sand, wash the dust from our hands, ourselves in these numberless days, and in the art of lying again, and in the art of lying again. Thank you. una puntata questa di 25 o'clock del 27-28 gennaio 2021, che assomiglia più a un'estensione di prove tecniche di trasmissione, che ci precede ed annuncia. E siamo passati quindi dal Rinaldo con Raw Refree, che è un produttore iberico che collabora con Rinaldo per la loro uscita del 2020, che si chiama Names of Nord and Women. Da cui abbiamo ascoltato The Art of Losing, e poi invece abbiamo fatto un salto indietro di 30 anni e qualcosa di meno, forse, no, di più, perché stiamo parlando del 1987, data l'ora mentale in cui ci troviamo, lo stato di equilibrio mentale in cui ci troviamo. Ci è difficilissimo fare anche i conti più semplici. E diciamo, questo è invece un Rinaldo 1987, From Here to Infinity si chiamava il lavoro, da cui abbiamo ascoltato Fuzz Locust. E questa è To Mary, Rinaldo, Onda Rossa, 25 o'clock. Dentro Radio Onda Rossa, scarcerando. Se è vero che il vero supporta il vero, questo è il momento di farlo davvero. Il pugno è sempre al cielo, sulla traccia sempre il cuore che comanda. La mia banda supporta scarcerando. Sei qua chi mezzo manda, chi ti voce ormai è privo. Io per primo ti rimbombo la mia in testa come un grido. E no, fra che non rido in questa viva, contro il carcere ogni giorno, perché non ci si muoia né ci si viva. Ah, fuori dal centro, per scarceranda. Peace. Noi continuiamo a mandare spot a palla sulla scarceranda, ma ovviamente per chi ha visitato il sito della radio e chi segue un po' le vicende della radio, quest'anno con larghissimo anticipo sui tempi possiamo dirvi che la scarceranda è andata in esaurimento. E sapete qual è la nostra volontà di far entrare soprattutto la scarceranda dentro le mura del carcere? Le poche copie rimaste saranno riservate ai detenuti e alle detenute che ce ne fanno richiesta, che ci hanno già fatto richiesta, peraltro, insomma. Niente, dai. Una rarità, io la mia non la cedo, sicuro. La programmazione in diretta con questa comunicazione, con l'altra comunicazione che vi volevo dare, che c'è invece diversamente. Il calendario di Radio Onda Rossa con le grafiche di Zero Calcare invece resta ancora disponibile, quindi qualora lo vogliate potete in qualche maniera richiedercelo attraverso i social o attraverso la mail della radio o venendo direttamente in radio. È un'ottima maniera per continuare a sottoscrivere per Onda Rossa. Andate sul sito della radio, su Sostieni, troverete tutte le modalità per far sì che questa emittente continui a fare il suo lavoro di controinformazione, di approfondimento, di denuncia. 61 80 40 01 il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo 0649 1750, recapito telefonico ondarossa@ondarossa.info, la mail per le vostre comunicazioni. La programmazione in diretta della radio finisce qui con queste note, vi terrà compagnia a seguire la compagnia automatica Sonata con le sue selezioni musicali, con le sue repliche dei podcast, delle trasmissioni, delle corrispondenze che la radio produce. Si riprende domattina, ovvero stamattina, alle ore 8 con la rassegna, con le letture delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa, la rassegna stampa cittadina, a seguire i redazionali della mattina di Radio Onda Rossa. Poi c'è tutta scena cinema alle 14, Attica Blues alle 16, La Schiena del Sole alle 17, Mezzedes alle 18, redazionali la sera di Radio Onda Rossa, Tabula Rasa a seguire alle 20 e i cuginetti di Apostasia che paiono là di tanti, ci auguriamo che possano presto tornare a calcare sui appestare e a mettere i dischi sulla console e sul mixer della radio. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutte coloro costretti a condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, tutti i centri di detenzione per migranti che servono per costringere, per selezionare, per filtrare quel che interessa del corpo, della mente, di tutte le persone, cioè l'essere materiale per produrre profitto, essere forza lavoro. Noi vi lasciamo con Taxi Gui di A Certain Ratio. Nella loro uscita del 2020 che si chiama SR Loco. Dai, ci risentiamo mercoledì prossimo. Bella a tutti e a tutte. Noi ce ne andiamo sotto la luna comunista. Dai. again, tonight we'll win. Let it begin, tonight we'll win. Dreams under a communist moon.